Europa 24. Ben ritrovati dalla redazione, da Valeria De Rosa. Quello che si chiude in questi giorni è stato il semestre di presidenza guida italiana, un semestre capitato nel cambio di legislatura e con le nomine della commissione aperte. I dossier chiusi sono stati comunque tanti. Sul fronte Ecofin, per esempio, l'accordo antiriciclaggio firmato dal ministro Padoan, più attenzione e sintonia sull'immigrazione, l'accordo sulla direttiva che consente di vietare gli OGM e poi la politica estera, su cui sta cercando di muoversi in modo unitario l'Europa con l'alto rappresentante Mogherini. Resta la flessibilità su cui tanto ha investito il presidente del Consiglio Renzi. Per la prima volta si dice ok, se procedi a degli investimenti che siano investimenti condivisi, puoi scorporare dal patto. Non è sufficiente per me. Continuerò all'interno del partito politico europeo di cui faccio parte, che su questi temi ha ancora una timidezza incomprensibile, e all'interno del Consiglio europeo a combattere perché gli investimenti che servono a ridurre la bolletta energetica in Italia, che cuba circa 5 miliardi di euro, possano essere esclusi dal patto di stabilità, che gli investimenti in banda larga possano essere esclusi dal patto di stabilità. Di Consiglio europeo parlava il Premier. L'ultimo si è tenuto il 18 dicembre. Ha approvato il piano Juncker, il fondo da 21 miliardi che dovrebbe generarne 315. Tempo fino a giugno per metterlo in atto. Abbiamo chiesto a Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento europeo e presidente del gruppo dei socialisti, un commento sul Consiglio. Io do un giudizio positivo. È stata messa una prima pietra nella costruzione di una politica orientata alla crescita e alla costruzione di posti di lavoro. Questo mi sembra importante. Finalmente un Consiglio europeo in cui non si parla di austerità, di stabilità, di consolidamento dei conti pubblici, ma si parla di investimenti, ciò che serve a creare un po' di ripresa economica e un po' di posti di lavoro. Ora è chiaro che è soltanto una prima pietra, ma mi sembra una buona inversione di tendenza, una buona discontinuità rispetto al passato. Qui si parla di un fondo da 21 miliardi che deve essere attivato entro giugno, sperando poi in una leva davvero importante, perché arrivare poi a 315 miliardi la strada è lunga. Guardi, io ho parlato con il presidente della Banca Europea degli Investimenti, gli ho chiesto: caro Presidente, ma tu pensi veramente che si possa avere un moltiplicatore pari a 15? Lui mi ha risposto: guarda, si può avere anche un moltiplicatore pari a 18. Poi io aggiungo che a questi fondi con il moltiplicatore, che già arriverebbero a 300 miliardi, dovrebbero aggiungersi i contributi nazionali degli Stati membri. Così come noi abbiamo chiesto, è stato accettato che anche dal Consiglio di ieri, che i contributi degli Stati membri non siano calcolati nel patto di stabilità, cioè se l'Italia, la Germania, la Francia vogliono aggiungere dei loro soldi a questo piano, lo possono fare senza avere, diciamo, la mannaia del patto di stabilità. Sarà importante anche capire quali saranno i settori da privilegiare, da finanziare. Per me i settori da finanziare sono l'energia, la transizione energetica, l'educazione, l'agenda digitale, i trasporti, l'ambiente, l'educazione e la cultura. Lei che giudizio dà di questo semestre di presidenza italiano che va a concludersi? Molto positivo, molto buono. L'Italia ha portato in porto una vittoria straordinaria con la nomina di Federica Mogherini come alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza, e finalmente stiamo avendo un primo grumo, un primo nucleo di politica estera comune, e Dio sa quanto sia importante in questo momento che agisca l'Unione Europea nel mondo di fronte a quello che sta succedendo. Cambia il mondo totalmente, è caduto un altro muro con la soluzione dell'embargo dell'USA nei confronti degli USA, nei confronti di Cuba, c'è la crisi ucraino-russa, ci sono tante situazioni, abbiamo votato un'importante risoluzione per il riconoscimento della dello Stato di della Palestina e per la sicurezza di Israele. Ci sono tanti versanti per cui la nomina della Mogherini è un grande risultato, l'avvio di un programma per gli investimenti e per la crescita e per il lavoro è un altro grande risultato a cui ha contribuito in maniera importante la presidenza italiana, e non dimentichiamo il bilancio, perché sotto presidenza italiana si è avuto l'accordo sul bilancio, che significa in concreto che i ragazzi che hanno fatto gli Erasmus, che rischiamo di non avere i soldi, li avranno, che significa in concreto che le imprese che avevano acceso dei contributi e dei mutui avvalendosi anche degli incentivi dei fondi europei li avranno, cose positive, se misurate al fatto che si è trattato di sei mesi nei quali si sono formati gli organi del Parlamento europeo, si è formata la Commissione europea, il Consiglio europeo, si è eletto il Presidente del Consiglio europeo, quindi non sono stati mesi di attività legislativa, l'attività legislativa inizia ora. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi, a voi l'augurio di una buona giornata. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.